La mattina del 7 gennaio 1506, sulla coperta della caracca genovese Julien, vidi sfumare in lontananza il profilo del porto di Vlissingen. Era passato un anno e mezzo dalla morte di mia madre e Filippo e io stavamo andando finalmente in Spagna. Mi feci portare una sedia, volevo rimanere in coperta a meditare sulla mia ultima sventura. Per proteggermi dal freddo mi coprii bene con il cappuccio di pelliccia. Nell'alloggio del capitano mio marito stava probabilmente bevendo vino con i suoi ciambellani in vendo contro di me, ma non mi importava. Sorrisi perfino, ricordando la sua espressione quando l'avevo obbligato a sbarcare le giovani che senza il mio consenso lui si proponeva di portare come passeggere con il pretesto che sarebbero state la mia scorta femminile. Minacciai di non imbarcarmi se non avesse accolto la mia richiesta. Avevo preparato con cura quel viaggio e lui non lo avrebbe amareggiato, provocando la mia gelosia con quelle donne. Chiusi gli occhi e respirai profondamente, tentando di accordare il ritmo del mio cuore con quello delle onde del mare. Mi ero lasciata alle spalle le Fiandre e l'anno 1505, annus horribilis, che si era annunciato nel novembre del 1504 con la morte di mia madre. Erano mesi che aspettavo la notizia, ma avevo sottovalutato l'effetto che mi avrebbe fatto. Ricevetti il messaggero con Filippo al mio fianco. Lui incominciava a credere alle sue fantasticherie e temeva che reagissi come la pazza in cui stava cercando di trasformarmi. Giovanna la pazza, so che i miei detrattori hanno già cominciato a chiamarmi così. La passione che negli uomini è motivo di ammirazione, nelle donne viene interpretata come segno di squilibrio. E io non so agire diversamente da come mi impongono le mie emozioni. Forse non ero nata per la corte, che è come dire per l'ipocrisia. Non gridai. Una fitta oscurità, un liquido nero mi riempì le vene, come se tutti i dolori della mia vita si fossero fusi in un mare di inchiostro. Mi sentii soffocare. Attorno a me tutti i colori sbiadirono. Fui colta da una vertigine di terrore, non so se della morte o della vita. Filippo si spaventò, forse perché subito smise di essere l'altro. Mi abbracciò, mi accarezzò il capo, mi cullò come fossi una bambina. La sua dolcezza spense le mie lacrime e a poco il liquido nero mi liberò la gola. Erano i primi giorni di dicembre e a Kudenberg le pareti trasudavano freddo. Lui ordinò di aggiungere della legna nei camini e di portare pellicce per coprirmi, si coricò assieme a me e cantò come un giullare. Passammo un'intera settimana a letto. Voleva cancellare la desolazione dai miei occhi. Non erano mai stati così spenti, mi diceva. Forse lo spirito di mia madre aveva soffiato su di noi prima di andarsene. In quella settimana d'amore in cui Filippo si dimostrò splendido e dormì come un dio nudo al mio fianco, concepimmo Maria. Parlammo. Mi chiese di comprendere se aveva mandato via le mie serve era perché aveva scoperto che cospiravano per portare Carlo in Spagna e lasciarci senza nostro figlio. Non lo contraddissi in niente, temendo che tornasse l'altro Filippo. Ma era solo questione di tempo, dovevo saperlo. Già durante le esequie regali per mia madre a Santa Gudula, il 14 e il 15 di gennaio, si fece dare la spada della giustizia e sfoggiò con ostentazione il nuovo blasone, su cui, come regni da aggiungere ai suoi possedimenti, incluse le insegne di Castiglia, León e Granada. 200 copie del nuovo e fiammante blasone adornavano la cattedrale e migliaia di persone lo portavano sulle loro fiaccole, poiché lui era il consorte ed ero io che detenevo il titolo di regina, a me si doveva l'omaggio. Ma di fronte ai suoi sudditi, lui decise di alterare l'ordine delle cose senza consultarmi, senza esitare a mettermi da parte. Mentre veniva acclamato, cambiò la sua cappa a lutto con una regale ricamata con il nuovo blasone foderata di ermellino, proclamandosi re. Indignata, dovetti rimanere alcuni gradini più in basso, a destra dell'altare, con il mio lutto e il mio velo oscura e spenta di fronte allo sfolgorio della sua vanità. Compatii la sua arroganza, la sua ambizione, e quando alcuni giorni dopo giunse la notizia che, usando la testimonianza di Martin de Moschica, mio padre, aveva ottenuto che le Cortes a Toledo riconoscessero la mia incapacità a governare e lo nominassero reggente, non mi infuriai nemmeno. Fu più grande la mia gioia per l'umiliazione inflitta a Filippo che la mia sorpresa per la manovra astuta di mio padre. Supposi che che la motivazione fosse quella di evitare che Filippo tentasse di usurparmi il trono, accettai le sue ragioni, pensando che dopo tutto, se dovevo scegliere tra un aragonese e un fiammingo per reggere il mio regno, avrei deciso per l'aragonese, almeno questo parlava la mia stessa lingua. Per legittimare la sua posizione, mio padre mi inviò una lettera chiedendomi l'autorizzazione a regnare in nome mio. Lui sapeva bene che ero in grado di intendere e di volere, proprio per questo considerava importante avere il mio consenso. Firmai subito, ma il mio aiutante di camera, Miguel de Herrera, sia maledetta la sua specie, lo riferì a Filippo, che senza esitazione, non tenendo conto ancora una volta della mia volontà, non solo strappò la pergamena, ma torturò il povero messaggero, segretario di mio padre, Lope de Concilios, in modo tale da farlo rimanere sfigurato e zoppo. A me riservò una sorte di poco migliore. Ordinò che nessuno spagnolo mi si avvicinasse e mi rinchiuse di nuovo nella mia stanza, ponendo questa volta nell'anticamera una dozzina di arcieri di guardia alla mia prigione. Poiché non potevo comunicare con nessuno, Filippo e Gomez de Fuensalida falsificarono la mia firma e scrissero una lettera nella quale io difendevo i diritti di successione di mio marito e gli giuravo fedeltà. In questi andirivieni con cui presumibilmente sia mio padre sia mio marito tentavano di usurpare i miei diritti, qualcuno informò Ferdinando della mia segregazione, questi montò in collera e si valse dell'informazione per disconoscere i miei presunti voti di lealtà verso Filippo, minacciando inoltre di rendere pubblici i supplizi che mi infliggeva se non mi avesse ridato immediatamente la libertà e non mi avesse trattato come spettava una regina di Castiglia. Finalmente furono aperte le serrature della mia stanza. Più che le rimostranze di Ferdinando, Filippo temeva la disapprovazione del proprio padre e in quei giorni l'imperatore Massimiliano, allarmato per le notizie dei nostri dissapori, si presentò a palazzo. Sudicia, con i lunghi capelli sciolti e scompigliati, coperta da un camicione grigio dal quale sporgeva la sfera del mio ventre pronta a rompersi per far uscire Maria, passai tra i miei carcerieri, attraversai l'anticamera in mezzo agli arcieri e corsi in giardino, impaziente di liberarmi dalla penombra di settimane. Era agosto, il sole, l'aria e gli alberi straripavano di doni. Il rampicante di campanule azzurre era sfibrato per l'abbondanza di fiori, le formiche indaffarate a trasportare foglie nei loro nidi. Dopo molti giorni di reclusione, illuminata soltanto da candele, mi lacrimavano gli occhi e vedevo tutto attraverso un velo umido. Dalle balconate, dai corridoi, servi e dame guardavano lo spettacolo. Forzai l'immaginazione perché il suono delle loro voci si fondesse con il frusciare delle foglie al vento, per non permettere alla loro curiosità di rovinare la mia contentezza. A parte il mio sollievo, devo dire che ebbi la chiara consapevolezza che ogni reclusione mi rendeva più abile a estendere gli orizzonti del mio mondo interiore e a conquistare gli spazi della mia solitudine. Se così non fosse stato, avrei veramente perso il senno. Questa risorsa, tuttavia, mi allontanava dagli altri per la capacità che avevo acquisito di astrarmi e di cancellarli dalla mia presenza, fino a percepirli soltanto come delle sagome lontane. Per contrasto, non riuscivo a fare a meno, se non soffrendone, della bellezza muta e generosa della natura. Quell'esilio mi causava un'inquietudine fisica, un desiderio di verde, di cime frondose, di cielo aperto, come quello che immaginavo sentissero i fiori quando morivano di sete. Mi sedetti sotto una betulla, a gambe e braccia tese, e con il viso alzato verso il cielo mi misi a cantare, a voce bassa, irrorandomi di sole e di luce. Non so quanto tempo rimasi lì, contenta, finché non giunsero delle dame fiamminghe a portarmi via. Mi lasciai condurre al bagno. Si sarebbe parlato della scena del giardino come di un ulteriore episodio della mia follia, ma non me ne importava niente. Nacque Maria, sana, come tutti i miei figli. Questa volta fui assistita nel parto da un medico e da una levatrice. Mio suocero arrivò e accettò di tenerla a battesimo. La pace sembrò ritornare nel mio palazzo, assistetti a tornei, banchetti, sotto lo sguardo di sfiducia e di timore dei miei cortigiani e la fredda vigilanza di Gomez de Fuensalida e dell'altro Filippo. Ora sto andando in Spagna, finalmente. In questi mesi non ho quasi visto i miei figli. Loro rimarranno a Cudemberg, Ho smesso di allattare Maria a Middelburg, da dove ho diretto i preparativi del nostro viaggio e l'ho affidata alla nutrice. Compatisco i miei figli. Saranno tutti re, probabilmente infelici. Non posso offrirgli un'infanzia felice, soffrendo come soffro per la mancanza d'amore e le tante reclusioni. Forse non li amo, forse non mi hanno permesso di amarli. Dal mio ritorno dalla Spagna non mi hanno mai più guardata, dando prova di avermi riconosciuta. Gli avranno detto che hanno una madre pazza. E per non vedere i loro occhi spaventati ho preferito vederli poco, quasi niente. L'armata che accompagnava me e Filippo era formata da 40 navi sulle quali viaggiavano, oltre al seguito e all'equipaggio, 2000 soldati tedeschi. Anche se la nobiltà spagnola ci aveva offerto il suo appoggio contro le presunte aspirazioni di Ferdinando, l'arciduca, mio marito, aveva preferito prepararsi a strappargli il trono con la forza, se fosse stato necessario. Per questo aveva assunto i lanzichenecchi come esercito personale. Sempre preoccupato di guadagnarsi il favore dei suoi servitori, Filippo non solo aveva imbarcato a mia insaputa e contro la mia volontà le donne che io avevo ordinato di far sbarcare, ma anche un nutrito gruppo di prostitute. Guardavo l'acqua, pensando alla balena di Giona come la metafora del recinto in cui mi nascondevo quando la vita mi faceva inabissare nelle sue profondità, quando percepii l'inquietudine del mare. Si era irrigidito, come se l'anima lo avesse abbandonato. Più che navigare, la Julienne sembrava sospesa sulla superficie dell'acqua con le vele flosce e abbattute. L'aria pesava come un fardello, il cielo plumbeo e opaco, imperturbabile da quando avevamo lasciato Vlissingen, aveva un riverbero minaccioso, come se qualcuno da dietro la volta celeste stesse versando argento liquido. Anche se lo spettacolo era bello, pensai a un assassino che si infila dei guanti di satin. Arriva una tempesta, mormorai. Un vecchio marinaio che legava di malavoglia delle sartie guardò il cielo e assentì con un brontolio. E di quelle brutte, disse. Alle 3 del pomeriggio il sole si nascose e il mare e il cielo iniziarono il loro rituale di battaglia. Il vento lasciò il suo nascondiglio e si mise a ululare come un lupo allontanato dal branco. Le onde alzavano le braccia verso l'oscurità che ci avvolgeva. Scesi nella mia cabina, mi feci il segno della croce e mi raccomandai, ora senza l'angoscia della premonizione e dell'attesa. Non c'era altro da fare che affrontare la tempesta. Mai un re o una regina che io sapessi erano stati vittime di un naufragio e non saremmo stati noi i primi. Io avevo superato la paura, ma gli altri passeggeri vi si erano completamente abbandonati. Pallido come un giglio di Pasqua, Filippo venne nella mia cabina e mi trascinò verso la sala comune dove si accalcavano dame, cavalieri e nobili con l'espressione di topi circondati dai gatti. Mi sedetti di fronte a loro al tavolo del capitano. La mia calma gli sarà sembrata indifferenza. L'imbarcazione ondeggiava, i cortigiani dagli stomaci delicati vomitavano mentre io, che invece avevo fame, mangiucchiai delle noci. Pioveva come se il mare si fosse trasferito in cielo e tentasse di tornare indietro. Spinta dal vento, l'acqua sferzava le fiancate e i boccaporti della nave. Notando il panico degli altri, dissi per assicurarli che mai un re o una regina erano morti in un naufragio. Mi guardarono come se stessi delirando, così mi strinsi nelle spalle e continuai a mangiare le noci. Nella cabina del capitano scivolavano libri dagli scaffali, rotolavano oggetti dai tavoli, cadevano mappe, cannocchiali, liquori immobili. Le dame in lacrime non trovavano dove attaccarsi, alcune reggevano le tende che si erano staccate, con cui si coprivano il volto e nelle quali vomitavano. Sdraiati per terra, duchi e conti, senza alcuna dignità, giacevano sul proprio vomito. E non sollevavano il capo nemmeno per vomitare. Filippo gridava di raccomandarci a Dio, Gomez de Fuensalida piangeva e lasciava che il moccio gli colasse sulla barba. I lampi si accendevano l'uno contro l'altro, i tuoni rimbombavano tanto vicini da farci scricchiolare le ossa. Stare calmi in queste situazioni rende saggi e ponderati. Mi venne in mente che coloro che soffrivano così avevano molto bisogno di meditare sulla loro piccolezza di fronte alla natura, di rendersi conto dell'irrilevanza del loro potere, incapace di scatenare venti e tempeste. Quanto poco eravamo di quel mare, noi, le nostre pene, le nostre preoccupazioni. In pochi minuti la tempesta ci riconduceva al terrore del nulla, alle paure dell'infanzia. A un certo punto, un fragore di albero troncato alla radice risuonò nella nostra testa. Sentimmo le grida del capitano che annunciava alla sua ciurma che l'albero si era spezzato. Filippo corse verso di lui e ritornò con un otre legato al corpo che, suppongo, pensava potesse tenerlo a galla in caso di naufragio. Non lo avevo mai visto tanto pallido né tanto sollecito con tutti. Credo persino che mi fosse venuto vicino e mi avesse chiesto perdono per i maltrattamenti e le reclusioni. Non era il momento di chiacchierare, fortunatamente. Presto, quando il mare si fosse calmato, avrebbe dimenticato quelle parole. Ma la tempesta non dava segno di placarsi. Il capitano scendeva sempre più frequentemente per comunicarci qualche guasto. Avevamo perduto l'albero maestro e non riusciva ad avvistare le altre navi. A un tratto chiese l'autorizzazione a liberarsi di una parte del carico. Gomez fu in salita, acconsentì e sentì che ordinava che gettassero in mare anche le meretrici che viaggiavano con i cavalli, perché sicuramente quella tempesta era un castigo di Dio. Vedere tutti tanto codardi e capaci di un simile crimine vigliacco fece traboccare la mia pazienza. Mi alzai e proibii al capitano, sotto pena di morte, che io personalmente mi sarei incaricata di far eseguire appena avessimo toccato terra, gli proibii di commettere quell'atrocità. Non getterete in mare una sola di quelle donne, a meno che non le accompagnino coloro che le hanno fatte salire a bordo per nostra disgrazia, a cominciare dal re, mio signore, cui senza dubbio dobbiamo questa decisione. Il capitano mi ringraziò con un gesto e uscì senza che Fuensalido o Filippo si fossero azzardati a contraddirmi. Mi ero guadagnata il rispetto dei marinai, poiché ero stata l'unica a non perdere la testa, a non piangere, a non vomitare. La mia calma aveva stupefatto tutti. Il terzo giorno di navigazione alla deriva, in cui la barca si era dondolata come se fosse sostenuta da una mandria di elefanti in fuga, la tempesta cessò. Avvistammo le altre navi della flotta, ma la maggior parte delle imbarcazioni non era in grado di proseguire. Con delle vele improvvisate e dopo le prime riparazioni, il capitano decise di fare rotta verso le coste dell'Inghilterra per chiedere aiuto. Quando giungemmo a Portsmouth, ci accorgemmo della perdita di 7 navi. Vidi sbarcare, con il viso ancora sconvolto dalla paura, le donne che io avevo ordinato di far scendere a Vlissingen. Fui presa dall'amarezza, mi chiusi nella mia cabina senza parlare con nessuno. Non sapevo più come reagire di fronte a tante umiliazioni. Dovevo svolgere il mio ruolo di regina, ma Filippo si prendeva gioco di me. Mi tendeva trappole a ogni passo per sottrarmi autorità davanti al seguito. Di fronte al suo comportamento, io reagivo con la disperazione del disamore. Come credere alle sue parole di pentimento, alle sue carezze, alle volte in cui mi aveva detto in mezzo alla tempesta quanto mi amasse? Con poco riempiva il mio cuore di speranze e di gioia, per lasciarlo poi esangue, senza aria, avvilito, inerte. E allora odiavo me stessa per essere stata ingenua, per il mio ostinato desiderio di credere alle sue parole, perché gli perdonavo sempre le ingiurie e il disonore che mi faceva subire, perché ogni tanto mi convincevo che le cose tra di noi sarebbero ritornate a essere come all'inizio. A nessuna delle offese davo tanto peso come quello che attribuivo alla più piccola prova d'amore da parte sua. Un gesto era sufficiente a spiegare le vele della mia speranza e a farla navigare come se il vento favorevole non dovesse mai calare. In un istante dimenticavo gli affronti che fino a poche ore prima mi erano sembrati un cumulo di atrocità insormontabili. Il capitano della nave si prese cura di me, credo che si fosse un po' innamorato. Mi guardava con enorme dolcezza e ammirazione. Mi era chiaro che, essendo un uomo di mare, il coraggio che avevo dimostrato durante la burrasca contava per lui più di qualsiasi voce o maldicenza che la scorta reale volesse fargli credere. Rispettò quindi il mio desiderio di comunicare a Filippo la mia intenzione di trattenermi nel porto mentre lui e gli altri andavano a Windsor con le carrozze mandate da Enrico VII, quando fu informato delle nostre difficoltà e dell'arrivo della nostra flotta davanti alle sue coste. Sarei rimasta sulla nave in compagnia del capitano, che era un uomo colto, con il quale mi intrattenevo in piacevoli conversazioni se non fosse stato per l'arrivo di mia sorella Caterina, che era venuta personalmente a ricevermi. Fu una grande gioia vederla dopo quasi 10 anni di separazione. Povera Caterina, era magra, abbattuta, malinconica, con il volto costantemente segnato da una smorfia di insoddisfazione e di tristezza. Vedova di Arturo Del Galle, si era fidanzata con il futuro Enrico VIII, ma la prospettiva di quel matrimonio la demoralizzava. Ma perché non ci sono toccati in sorte uomini dolci come quel capitano? Gentile, leale, bello. Si lamentò. I principi che il destino ci aveva assegnato ci causavano solo dolori e lacrime. Si meravigliò che io fossi ancora bella. La mia figura, dopo 5 figli, era ancora quella di una ragazza e non avevo rughe, né quella smorfia che aderiva al suo volto come una maschera che nessuno poteva più toglierle. Piangemmo entrambe per nostra madre. Fu una consolazione, nonostante il tempo trascorso, stare con chi non mi avrebbe tradita e alla quale potevo confidare senza timore i miei sentimenti più intimi. Al momento del commiato, Caterina mi disse che il re, suo suocero, era rimasto profondamente colpito da me. Una delle sue dame lo aveva sentito dire che era stupefatto che mi accusassero di essere pazza quando lui mi aveva visto tanto saggia e padrona di me. Avrebbe voluto una regina come me nel suo palazzo. Sta attenta, mi avvertì mia sorella, accusano te di essere pazza e guarda la pazzia che ha commesso nostro padre sposando Germana de Foix, una donna più giovane di noi, confidando sul fatto che metterà al mondo un figlio che salirà al posto tuo sul trono di Aragona. Caterina era dell'opinione che Ferdinando, da buon aragonese, non avrebbe avuto alcun riguardo ad allearsi con Filippo contro di me per mantenere il controllo sulla corona di Castiglia. Io invece le confessai, contavo sul fatto che lui mi proteggesse dall'ambizione di Filippo. Se lo avesse fatto, avrei governato volentieri assieme a lui come nostra madre. Non ero disposta ad accettare che Filippo regnasse in Spagna a mio discapito. Caterina temeva i raggiri dei due. Dalla lotta per il potere noi donne uscivamo sempre sconfitte. Nemmeno nostra madre sarebbe riuscita a impedire che Ferdinando ordisse una trama per non farmi regnare. Caterina e io rimanemmo assieme molti giorni. Troppo presto suo suocero la fece ritornare a Londra, dopo banchetti e cerimonie nel castello di Windsor. Il re stava trattando in quel periodo la sua dote con nostro padre e sicuramente non voleva che io, come prossima regina di Castiglia, intervenissi a favore di mia sorella. Prima di partire, lei organizzò il mio trasferimento da Windsor al castello di Arundel, nella campagna inglese. I suoi amici, i duchi di Exeter, me lo cedettero gentilmente perché riposassi e mi riprendessi dal mio viaggio difficoltoso. Dopo una settimana di riposo idilliaco tra gente piacevole e premurosa che mi trattò con gli onori che mi spettavano come regina, mi sentii molto meglio. Ero di buon umore quando Filippo arrivò per riunirsi a me. Lo perdonai, come tante altre volte. Lui si dimostrò appassionato e gentile, come se l'aria dell'Inghilterra gli avesse trasmesso dolcezza e signorilità. Ero lungi dall'immaginare che questi sarebbero stati gli ultimi giorni sereni e felici passati insieme. In quei giorni concepimmo la mia ultima figlia, che avrei chiamato Caterina, la compagna della mia prigionia, la figlia postuma del mio Filippo, il Bello. Mi faceva uscire di senno che ai giorni di amore e di armonia che io e Filippo vivevamo ne seguissero altri in cui ci trasformavamo in nemici giurati. Nella mente, nel corpo, la mia ragione, le mie illusioni scompigliate battagliavano fino a lasciarmi inappetente, esausta e immersa in un mare di tristezza dal quale mi sembrava di non poter riemergere. Ignoravo ancora la presenza di Caterina dentro di me quando entrammo nel porto di La Corugna il 27 aprile del 1506. Il piano originale era di sbarcare a sud, a Siviglia. Lì Filippo si sarebbe incontrato con il duca di Medina Sidonia e con altri nobili per raggiungere in seguito Toledo, dove era mio padre, con l'appoggio del suo esercito tedesco e delle forze messe a disposizione dalla stessa nobiltà castigliana. Ma i venti cospirarono contro questo piano. Corremmo di nuovo il rischio di naufragare. Il nostro capitano perse la rotta per 4 giorni, fu costretto a cambiare i piani e sbarcare alla Corugna. Gli abitanti del piccolo porto non appena seppero chi erano i passeggeri delle imbarcazioni che inaspettatamente erano approdate alle loro coste, prepararono a grande velocità un ricevimento adeguato, molto orgogliosi che i nuovi monarchi avessero deciso di concedere loro l'onore di essere la prima terra spagnola che avrebbero visitato. Mentre Filippo si entusiasmava all'idea di sfilare in sella ai bellissimi sauri arabi che avevamo con noi e si agghindava per destare l'ammirazione dei suoi nuovi sudditi. Io mi domandavo come avrei potuto eludere quel frangente. Non volevo mettere in discussione il potere di mio padre e non volevo che la nostra entrata trionfale fosse interpretata come un tentativo di prendere il suo posto. In seguito all'accordo di Salamanca, firmato il 24 novembre del 1505, dopo che il matrimonio del mio astuto genitore con Germana de Foix aveva compromesso l'alleanza di Filippo e di mio suocero con i francesi, mio marito fu obbligato ad accettare che regnassimo assieme, ma che governasse mio padre con diritto alla metà delle rendite del regno. Questo accordo, però, come i tanti che avrebbero firmato questi due uomini, era carta straccia. Nessuno dei due era disposto a cedere. Quello che negoziavano costantemente era tempo per misurare forze e astuzie. Io ero per tutti e due la carta segreta, quella decisiva. E il mio piano era di allearmi con mio padre per impedire che Filippo e soprattutto i suoi consiglieri mi destituissero con degli stratagemmi e che i fiamminghi sfruttassero le terre di Spagna. Per questo dovevo agire con moderazione e intelligenza e non mandare segnali ambigui. Mi proposi allora di rifiutarmi, di esercitare la mia autorità regale finché non mi fossi riunita con mio padre e non mi fossi accordata con lui sul modo in cui avremmo condiviso il potere. I nostri ospiti, sorpresi che io non avessi accettato le chiavi della città e non avessi prestato giuramento sul loro corpo di leggi, pensarono che forse mi avevano offesa. Cercai di rassicurarli come potei e mi sistemai con Filippo in un convento di francescani che ci offrirono la loro ospitalità. Su suggerimento dei consiglieri, Filippo inviò un messaggio con la notizia del nostro arrivo ai più importanti nobili del regno, che nei giorni seguenti cominciarono ad arrivare con un nutrito seguito. Verificai, scoraggiata, che la maggioranza di loro decideva di passare dalla parte di Filippo, che non perdeva occasione per rinfacciarmi che sbagliavo ad aspettare mio padre invece di appropriarmi una buona volta di ciò che ci apparteneva. Ferdinando non avrebbe potuto fare altro che accettare di essere in svantaggio e ritirarsi in Castiglia, mi disse. Se io pensavo di regnare assieme a mio padre, potevo dimenticarmi di loro. La nobiltà era stanca della sua ferrea autorità e soprattutto delle sue imposte. Come nelle Fiandre, anche senza catenacci alla porta, Filippo mi sottopose di nuovo a un regime di isolamento nel mio stesso paese. Riceveva da solo i nobili a mano che arrivavano. Il confessore del convento, un buon uomo dalla voce roca, ormai avanti negli anni, mi disse nell'oscurità della cappella che circolava la voce che il mio consorte mi tenesse prigioniera. Non confermai né negai, in attesa che la situazione si risolvesse al più presto. Per far tacere le voci, suppongo, Filippo mi permise di ricevere il marchese di Villena quando questi venne a presentarmi i suoi ossequi. Si spalancarono le porte del salone dei ricevimenti in modo che anche gli altri nobili che affollavano il luogo potessero vedermi. Gli sguardi dei miei compatrioti erano come bisturi che volevano penetrare nei meandri della mia mente per verificare la mia lucidità. Il marchese di Villena portava lettere molto affettuose di mio padre per Filippo. Ai gesti di sfida di mio marito, il suocero rispondeva ogni volta con affetto e umiltà. Mi chiesi che cosa stesse tramando. A poche settimane dal nostro arrivo, l'arroganza e l'impenetrabilità dei fiamminghi della corte di Filippo era un muro contro cui si infrangevano le ambizioni dei nobili che speravano di ricevere favori, rendite e nomine. Nel convento in cui ci trovavamo cresceva la tensione e il malcontento era tale che trapelarono attraverso voci di corridoio le lamentele per le lunghe attese e le umiliazioni che Filippo e i suoi facevano subire agli orgogliosi e impazienti spagnoli che si aspettavano prebende in cambio della loro alleanza.